linee, nei fiumi, e sarà per questo che prima che l'acqua si consumi vorrei poter sciacquare i panni miei. Quest'estate non sai quanto vorrei partire per la cuna del mondo, girarlo tutto in tondo e poi magari fino a Bombay. Oddio, come vorrei, per cancellare il mio karma negativo con un tuffo nel Gange radioattivo, e poi magari passare per Calcutta ascoltando la tua bella cassetta. E oggi ascolto col registratore che fu il primo regalo del mio penultimo amore. Passione che abitava nella palazzina della mia seconda ragazzina, che stava di casa vicino vicino alla casa del mio primo filarino. Poi le vite precedenti e i sentimenti